Allora, così vi racconto velocemente un po' come è nata questa esperienza. Praticamente noi 18 anni fa ho preso in gestione questa azienda agricola di 36 ettari e diciamo che ai tempi è stata presa da varie persone che vivevano intorno alla mia famiglia, a me, come una specie di follia. E la follia probabilmente ha un po' segnato tutta la mia esperienza, nel senso che se non fai delle cose con un pizzico di follia, tra virgolette, di speranza in quello che non vedrai, ma quello che pensi che potrebbe servire. E potrei citare una frase bellissima di una poesia che vi ho fatto leggere l'anno scorso quando abbiamo fatto La Terra Trema, la prima edizione a febbraio, mi pare, del 2005. Scritta da questo agricoltore del Kentucky, Wendell Berry, che è il fondatore del manifesto del movimento del contadino impazzito, che dice a un certo punto: pianta sequoie, lì c'è dentro tutta la follia di chi non sa cosa sta facendo, o lo sa ma non vedrà mai i frutti di quello che sta facendo, ma ci crede. E la nostra esperienza, la mia esperienza nasce proprio da innanzitutto un profondo amore per il territorio, una discreta conoscenza di questa zona, del Ticino, di queste campagne, e la voglia di comunque di condividerlo, perché se fai l'agricoltore non è matematico che tu possa fare il gestore di un agriturismo se non hai questa voglia di condividere qualcosa, se non hai voglia di condividere una bellezza. E da qui nasce proprio tutta una serie di cose che partono ovviamente anche da una mia passione per vedere la terra rifiorire, per sperimentare delle produzioni, per sperimentare delle cose, per vedere i propri prodotti agricoli trasformarsi in alimenti, un'altra magia che è proprio una delle magie più interessanti, più entusiasmanti dell'umano. Vedere il grappolo che diventa vino, vedere l'acqua che diventa riso e tante cose che stiamo facendo, vedere crescere delle carpe all'interno di una risaia, vedere che queste carpe riescono a diminuire il tasso di erbe infestanti, per cui non usi meno o non lo usi, come nel nostro caso, diserbanti. Vedere queste carpe comunque anche accrescono il loro peso e possono diventare un alimento straordinario. Vedere dei mappali catastali del 1740 dove è evidente che lì si coltivava la vite e crederci in un progetto di riqualificazione del paesaggio prendendo spunto da questa visione, chiamiamola così, di questo territorio che riprende ad avere dei connotati più umani, dove quello che ti serve per vivere viene prodotto in loco. E questa follia che ha coinvolto un po' tutti lì alla Caremma è un po' la base di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo facendo. Certo, ho avuto la fortuna di trovare per strada questa possibilità che adesso si chiama agriturismo. Sicuramente questo è stato un fatto importante. E quando parlo dell'agriturismo con la maiuscola, e spero che tutti capiscano cosa voglio dire. Un agriturismo che io dico sempre è stato comunque studiato e messo a punto straordinariamente dai politici. Cioè è uno degli esempi straordinari di una legge che abbia un'organicità, un senso, una ricaduta positiva non solo sull'imprenditore che fa un lavoro, ma su tutte una serie di cose, dal territorio agli utenti, alla manodopera, alla manovalanza, eccetera, eccetera. L'agriturismo in effetti, pur avendo tantissimi limiti, che io non sono sicuramente il primo non è la prima volta di cui posso parlarne ampiamente, perché ne ha tanti, però comunque ha un meccanismo, dico, intrinsecamente rivoluzionario, perché se ci pensate bene è l'agricoltore che diventa proprietario degli strumenti di trasformazione e di commercializzazione, quando di solito, purtroppo, e la storia ci insegna, l'agricoltore è solamente un produttore di derrate che poi vengono trasformate e commercializzate, e in questi due passaggi è lì che ci sta il guadagno, purtroppo, che l'agricoltore normalmente non vede. Per cui questa grande possibilità che è stata data all'agricoltura, io credo che si abbia un qualcosa di buono. Ha un sacco di limiti, ha un sacco di difetti, però rimane una cosa molto interessante, soprattutto quando si fa agriturismo partendo da un'azienda agricola biologica, perché allora lì abbiamo una garanzia che molto di quello che viene dato, offerto ai nostri ospiti, deriva dall'azienda stessa, che l'azienda ha subito una radicale trasformazione, per cui ha incominciato la diversificazione delle produzioni, che è una cosa ovvia, perché se vogliamo dare da mangiare ai nostri ospiti dobbiamo diversificare le produzioni, non possiamo avere un'azienda agricola a mais, ma dobbiamo avere tante cose. E quindi questo progetto agrituristico, secondo me, ha delle grandi valenze. Non a caso anche alcuni uffici della FAO stanno studiando la possibilità di utilizzare un progetto tipo quello dell'agriturismo legato alle aziende biologiche per promuovere un certo tipo di turismo anche nelle zone svantaggiate del mondo, creando sicuramente un indotto interessante, creando dei villaggi autosufficienti a livello alimentare. E questa è una cosa, è una grande rivoluzione, perché fino a pochi anni fa voi sapete che i grandi miti del progresso agricolo erano quelli dell'agricoltura industrializzata, con le grandi produzioni, la genetica, per ultimo la genetica deformante, come chiamo io. Mentre l'agriturismo e l'agricoltura biologica, visto come una realtà piccola, una realtà di una microeconomia, può essere veramente una situazione che crea un esempio e una situazione che può risolvere veramente alcune situazioni in molti posti del mondo. Noi questa cosa l'ho capita dopo, me l'hanno raccontata della gente che lavora con la FAO, e la cosa mi ha ovviamente entusiasmato e sicuramente mi è piaciuta. Credo che forse parlare di agriturismo così, insomma, è forse meglio che qualcuno che è interessato venga a visitare la nostra azienda. Io volentieri potrei far vedere dalle campagne ai locali di trasformazione, perché ovviamente per fare le trasformazioni occorrono dei locali, eccetera, eccetera. Adesso stiamo implementando ulteriormente questo aspetto. Entro la fine dell'anno vorremmo fare un caseificio nel quale dovremo lavorare una piccolissima quantità di latte prodotto da 3-4 vacche. Presto berremo il nostro vino, e questa è una grande scommessa che ci ha fatto passare ulteriormente per pazzi, perché non è stato facile mettere giù 1500 piante, ne volevamo mettere 10.000, ma ci è stato concesso gentilmente dalle nostre autorità di metterne 1500, però presto faremo quello, e faremo quindi anche un laboratorio per la vinificazione, al quale vogliamo ovviamente aggiungere un laboratorio per la trasformazione, per la fabbricazione della birra, perché da noi c'è tutto per poter farsi la birra, perché non dobbiamo farcela. Cioè abbiamo del lupolo naturale eccezionale, noi coltiviamo orzo, coltiviamo diversi cereali che si adattano a fare queste cose. Insomma, la nostra follia è questa cosa, è questa passione per crescere, per vedere, per toccare con mano quello che così in questi giorni mi è venuto più volte, per toccare con mano la generosità della terra. E io ci credo veramente che la terra è generosa. Forse molti agricoltori non sanno più che la terra è generosa, soprattutto quelli che non si affidano più alla natura per verificare questa cosa, ma si affidano a delle fonti di energia esterne, delle fonti che creano inquinamento, ai fitofarmaci, ai diserbanti, eccetera, eccetera. Sicuramente il fare dell'agricoltura biologica è un qualcosa che ti fa toccare con mano la grande generosità della terra, perché vedi che quello che stai facendo comunque ti dà dei grandi risultati e dei grandi sapori, dei grandi profumi. Io questa cosa mi piace, è un po' la nostra pazzia, e andremo avanti per questa strada. Grazie.